quando mari tan dolor di cu di pieri menis. Die pegnot, allere muart un cu a Rom, cu la consolazion di viodi a tor di sé, la sua femmine, duci soi, fis e fies. Tra questis une e iere vignude di lontan, schiampate dal son che non le lasave mai slontanarsi di casa, la maltrattava come un'esclave, e di chioppo lui di una volta l'aveva bastonato un botto di due lisani. Dopo vestiti il muar e regolate la chiamare, mi tu dongie da liet la tace di Aghesante con la ramazzuta di Uli, e inviate la tace da Lueli, che sfemmi stivano io a bas, e si senti in dongie dal fu, metti in dongie il capò, par paradie il tin e favigni giù. Appena è claro, e su nell'Ave Maria, e subito dopo la campana mezzane, e comincio a suonare la passata, perché il puarom muardi e pagnotti. A sentivo, la sua femmina si metteva lì, e allora la figlia vignuta da lontano di se ho leso mai vai per mare, non vedo far duce che ho potevi fare. Se al vez domani, pare si scivuti là di mostie. Puarom falere tandalato vecchio po', via le anime. E allora la vecchia tra le lacrime si risquinta. Tu disis tu vittorie, ma non tu sas c'è tan dolor di cur che a lei, quante al mance no. E vittorie, che faceva il caffè, messe d'ancula si donta il calderin, pensando di che birbe che aveva a chiase, che in beve patis di luci colors, disse, ah mari mari, quan mai puoi Dio provare anche io che il gran dolor di cur che voi ho provai svo. I Pulci di Arturo Feruglio. Una biele giornata, il pari eterno e San Pieri, aveva in giro pal paradis, e di un momento all'altro, al venzù de chiare un sussù, un teatro, un da voi mai sentù. I nostri due amis, un rispietto e si tacchi il ben ben intefiliate, parno fa une brutte marcule, e chiali mi. Il pari eterno al mezzù gli occhiali. San Pieri più giovin non aveva bisogno di questi sfotis. E un po' calavante e capisci di ciò che si tratta. E sberle San Pieri. Vuoi dite io? E son femminis che si patufin. Il pari eterno al chiale e al gas. San Pieri invece non potignisi. E qui tu insiarasse con la voce plena di velin. Brutis femminatis al zighe. Non vedo noi altri ce fa. L'aita chiasave a tignia mens de canare. Non poteva pararsi via. E per sbrocarsi, al vaire e al pestare i pis come un frutto. Ma ecco che il pari eterno, sempre pronta a salvare dai malans che ste cuore umanità, calmiti Pieri, al dis. Non stai ingrabbiato. O rimedarin, c'è mai. Vino di forza e alla lingua. Ma taranche tu so spieri, chiale c'è che al baste. E al butto giù su che il trobbi femenam spirità, un pugno di puls, caltigni 21 sacchette de camisola. Chioi, al dis, usai i regali tu la me benedizione. Guidati dalla man divina, i puls e vengoli in un po' paraier, e plantin, plantin, si poincidin sul trobbo femmini s'invelenavis. E spasigin sugli sviestis, e poi legris, legris, e van su pei braz, e sgiambis, in qual nas, in tesorelis, e saltuzzin e balluzzin che i benedetti. E tasin di bot, gli sfemmis. Cese che ste smania, che non sai c'è. E in principi con pazienza, e poco in furie, e pochi in aggrapasi e spulzasi, cagliere un plasea viodilis. Il miracolo. Non si sentiu iunghet paraia. Il paradis al torne quie. E San Pieri e il pari eterno e tirin in denan contents che velan dal pluie dal manicul. Cheritis, dall'almanacco Il Chiavedal del 1946, curato da Giuseppe Marchetti. Pardivi si scugne viodi, raviodi e proviodi, strolegà, pensa su e battirà, movisi, messedasi e sgarmetà, dai soc, strusiasi e sgobà, sburtà, tirà e tigni su, sta sal, tigni dure e nomolà, qui sta paradoglie, tigni con, glotimar, spudadol e mastiai, onzi il chiar da seon e lauda la massime, spiula sul so, raspala chialderi e rischiela il fros, tigni, scorteai tasi, stropobusis, tapona presuris e siaraclostris, mai cinquanta, mai facareghete, mai rompicitis, voltas in daur, chialas in bande e la indenan, disgota la tace, le calplat, mangia un cicin e auf polente, alza il pul, disbassa la crucchie e menali schiarculis, fufignà sul serio, sbisia pardabon e dai di come don, sverdeasi, rangiasi e ciotolà, petasò, distrigasi e speseà. Siamo certi, amici lontani, che questi semplici e sereni racconti di casa nostra vi abbiano riempito il cuore di profonda nostalgia per il vostro caldo popolare. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelicciari, dizione di Ottavio Valerio.